Storie italiane. Vecchio cappuccio. C'era una volta un re e una regina che non avevano figli. Questo rendeva la regina molto triste, perché voleva avere un figlio tutto suo. Un giorno, mentre era seduta nei giardini del palazzo, una strana donna le si avvicinò. Salve, Vostra Altezza, mia regina! Chi sei, cara signora? So cosa vi affligge e posso aiutarvi. Puoi? Veramente? Prendi questo. Prendi due secchi d'acqua e mettici questo. Lavati in quell'acqua e poi gettala sotto il letto. La mattina dopo troverai due fiori sotto il letto. Uno blu e uno viola. Dovrai mangiare quello blu e lasciare quello viola dove si trova. La regina fece come le era stato detto. Fece portare due secchi d'acqua nelle sue stanze e si lavò in quell'acqua. Poi l'acqua fu gettata sotto il letto. La mattina dopo, proprio come aveva previsto la vecchia, due fiori erano nati sotto il suo letto. La regina prese il fiore blu e lo mangiò. Era la cosa più deliziosa che avesse mai assaggiato. Desiderava sapere che sapore avesse l'altro fiore. E, dimenticando ciò che la vecchia le aveva detto, mangiò anche il fiore viola. Presto, la regina diede alla luce due bambine. Una delle due era bellissima. Sembrava un angelo. E l'altra? L'infermiera fu scioccata nel vedere la bambina. Che cosa? Come può essere? Che cosa c'è? Una delle due bambine era nata con le corna e una coda. L'infermiera gliela mostrò. La mia bambina è in salute? È in salute, ma... È mia figlia, anche se è diversa. La crescerò con tutto l'amore e la tenera cura che darò all'altra bambina. La chiamerò principessa Horndale. E l'altra sarà la principessa Agnes. E così andarono avanti. La regina e il re crebbero entrambe le figlie con amore e cura. Le due sorelle erano così unite che erano praticamente inseparabili, anche quando divennero più grandi. Ma la principessa con le corna insisté per indossare un vecchio cappuccio e portava sempre con sé un cucchiaio di legno. Quindi la gente iniziò a chiamarla principessa vecchio cappuccio. Quando le veniva chiesto: «Perché indossi quel cappuccio e perché porti quel cucchiaio di legno?» «In modo che l'amore più puro un giorno trasformi il cappuccio in una corona e il cucchiaio in una bacchetta d'angelo!» Un giorno, il palazzo ricevette un messaggio. «Oh no!» «Che cosa c'è, padre?» «Una tribù di troll si è trasferita nel nostro regno. E come fanno sempre i troll in qualunque regno, attaccheranno il palazzo alla vigilia di Natale!» «Ma sarà solo per quella notte? Lasciamoli fare a modo loro e poi andranno via!» «Sicuramente, mia cara, ma di solito prendono le cose più magiche del palazzo e del nostro. Le cose più magiche sono le nostre figlie, cercheranno ovunque. Non c'è davvero nessun posto abbastanza sicuro.» «Ah, non ti preoccupare, padre. Ho più magia di quanto i troll abbiano mai visto prima. Lasciali venire. Mi assicurerò che non succeda niente a me o a mia sorella.» Quindi arrivò la notte della vigilia di Natale. Il palazzo era in guardia, ma i troll arrivarono nella stanza in cui si trovavano le principesse. Entrambe combatterono e sconfissero i troll. La principessa vecchio cappuccio combatté con il suo cucchiaio di legno. I troll fuggirono presto, ma prima di andare, uno dei troll lanciò una potente magia sulla principessa trasformandolo in una mucca. Agnes! Tutti nel palazzo furono davvero tristi nel vedere cosa avevano fatto i troll. Ma la principessa Vecchio Cappuccio non si sarebbe arresa. Mia povera figlia! Cosa faremo? So dove vivono i troll. Nel castello oltre i tre mari. E nel mezzo dei tre mari l'acqua è magica. Con quella posso sconfiggere i troll e riportare Agnes alla sua vera forma. Acqua magica in mezzo ai tre mari? Non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere. Per questo devi essere una persona con le corna e una coda. Padre, fammi costruire una nave più forte che ci sia e solo Agnes ed io navigheremo su di essa. Presto metterò tutto a posto. E così le due principesse navigarono attraverso i tre mari. Nel mezzo di ogni mare, Vecchio Cappuccio raccolse l'acqua, la mise nel suo calderone e la mescolò con il suo cucchiaio di legno, mentre Agnes guardava. Quando fu messa l'acqua del terzo mare, l'acqua divenne di un viola intenso. Vecchio Cappuccio la mise in una pentola e la portò alla base del castello dei troll. I troll la videro e attaccarono. Lei immerse il cucchiaio nella pentola e lanciò l'acqua viola contro di essi. Cominciarono a correre via fortissimo, fino a quando non raggiunse il troll che aveva fatto l'incantesimo alla principessa Agnes. Per favore, non attaccarmi con quello, per favore! Allora, fai tornare mia sorella com'era. Annulla il tuo incantesimo. Adesso! La principessa Vecchio Cappuccio portò il troll sulla nave e gli fece rimuovere l'incantesimo. La principessa Agnes si trasformò di nuovo in se stessa. Ma prima di partire con la loro nave, il troll le avvertì. Se vorrai rimanere te stessa per sempre, entrambe dovrete trovare il vero amore prima di tornare dai vostri genitori. Se entrerete nelle porte del vostro palazzo senza aver trovato il vero amore, diventerai di nuovo una mucca. Mi dispiace, ma è così che funziona questo incantesimo? Oh, cosa facciamo ora? Dove troveremo il vero amore? E come potremo mai sapere se è vero? Non preoccuparti, sorella. So esattamente cosa dobbiamo fare. La vera prova del vero amore è il sacrificio. La principessa Vecchio Cappuccio sapeva perfettamente cosa avrebbe fatto. Non sappiamo come, forse grazie alle sue corna, navigò fino ad un paese lontano dove viveva un re con i suoi due figli. Quando l'esercito del re vide una bella nave, forte più di ogni altra, entrare nel loro porto, andarono e informarono il re. Altezza, la nave è enorme, ma non c'è esercito. Tutto ciò che abbiamo potuto vedere è una donna con le corna e la coda. Che cosa? Com'è possibile? Padre, permettimi di andare a controllare. No, fratello, una donna del genere potrebbe essere stregata o forse una strega lei stessa. Non permetterò al mio fratellino di rischiare la vita. Padre, andrò io. E io ti lascerei andare da solo? Andremo entrambi a vedere che cosa sta succedendo. Quindi, i due principi si diressero verso la nave. Quando raggiunsero il ponte, chiesero informazioni. Le due principesse dissero loro dei troll e che dovevano navigare ancora un po' prima di poter tornare a casa. Tuttavia, non menzionarono la ricerca del vero amore, perché quello non è il modo in cui si trova il vero amore. Poiché erano principesse e quindi ospiti reali, per i successivi tre mesi i principi le portarono in giro per tutto il paese. Parlarono e fecero picnic insieme e in poco tempo Agnes e il principe più grande si innamorarono l'uno dell'altra. Un giorno le sorelle dovevano lasciare il paese. Il principe più anziano non poteva più sopportare e disse ad Agnes: addio. Non andare. Per favore, non andare. Non possiamo restare qui per sempre. Non apparteniamo a questo regno. ed io non posso lasciarti andare prima di averti detto la verità. Potrai anche punirmi se non ti piacerà quello che sto per dirti, ma devo essere sincero e te lo dirò con il massimo rispetto. Cosa c'è, principe? Mi sono innamorato profondamente di te, principessa, e vorrei sposarti. Accetti di prendermi come tuo sposo? Mia sorella ti sposerà solo e solamente se tuo fratello sposerà me. Lo farò. Fratello, no. Non puoi sposare qualcuno che non ami solo per causa mia. Fratello, il vero amore è molto difficile da trovare e tu hai trovato il tuo. Potrei essere felice con la sorella della tua sposa, ma se lasci scappare via il tuo amore, non sarai mai felice. Non vedi? Anche lei è innamorata di te. Il principe maggiore fece del suo meglio per convincere il suo fratellino a rinunciare al pensiero di sposare vecchio Cappuccio. Ma il principe più giovane non lo volle ascoltare. Anche la principessa Agnes non voleva mettersi contro la sua cara sorella. Quindi, dopo molte discussioni e molti discorsi, fu stabilito che il principe più anziano avrebbe sposato la principessa Agnes e il principe più giovane avrebbe sposato la principessa Vecchio Cappuccio. Il giorno del matrimonio arrivò. Vecchio Cappuccio convocò il principe più giovane nelle sue stanze. Mi hai chiamato, mia signora? Sì, volevo sapere. Non c'è niente che vorresti dirmi o chiedermi prima di sposarci? Mio fratello sta sposando il suo vero amore e ne sono così felice. Non vuoi sapere delle mie corna, della mia coda e del mio cucchiaio di legno? Ti accetto così come sei. E mentre è vero che non ti amo, vedo che compagna deliziosa, affidabile e intelligente sei stata. Mi è piaciuto girare il paese con te e spero che un'amicizia ti possa bastare, mia signora. Farò del mio meglio per renderti felice. Hai la mia parola. Mi fido completamente di un uomo che sta facendo un così grande sacrificio per suo fratello. Ma, come mio futuro marito, hai tutto il diritto di sapere. Quindi, non preoccuparti di sembrare scortese. Sii diretto. Questo mi renderà felice. Perché indossi quel vecchio cappuccio? Dove? Che vecchio cappuccio? Come puoi scambiare la corona più bella del mondo con un vecchio cappuccio? Eh? E perché porti quel cucchiaio di legno? Quale cucchiaio di legno? Questa, signore, è la bacchetta più bella che una principessa abbia mai avuto. Come mai sei nata così, con le corna e una coda? Chi dice che sono nata con le corna e una coda? Mi sa che hai le visioni. Sei favolosa, ma non capisco. Che cosa è appena successo? È il potere del vero amore, principe. Bene, io non ti ho mai amata davvero. Ma ami tuo fratello maggiore, per il quale eri disposta a fare un così grande sacrificio. E in un certo senso ami anche me, perché non mi hai mai fatta sentire a disagio per le mie corna, la mia coda e la mia eccentricità. Mi hai sempre trattata con il massimo rispetto. Questo prova che sei un uomo con un cuore veramente giusto e nobile. E solo un cuore simile può amare. Lo stesso vale per mia sorella Agnes e tuo fratello. Entrambi erano disposti a sacrificare il loro amore per noi due. Tuo fratello, in modo che tu non dovessi sposare me, e mia sorella, in modo da onorare la mia parola. L'amore e il rispetto sono davvero così potenti. La magia più potente del mondo. Grazie per averci salvati tutti. E così andarono le cose. Le due coppie, la principessa Agnes e il principe più grande, così follemente innamorati l'uno dell'altra. La principessa Vecchio Cappuccio e il principe più giovane, così pieni di rispetto reciproco, si sposarono con grande sfarzo e splendore e vissero tutti felici e contenti.